Eccoci di nuovo in onda, le 18:10, ancora qualche minuto e poi parleremo, come abbiamo detto, della situazione in Brasile con un ospite qui ai nostri microfoni. Di seguito poi parleremo anche della Grecia, in particolare della visita di Obama oggi in un tour europeo alla fine del suo mandato. Oggi è ad Atene, grande schieramento di polizia, 5.000 poliziotti, di cui 500 in borghese, che praticamente pattugliano tutto il centro della città, perché Obama dovrebbe essere già stato ricevuto dal Presidente della Repubblica e in questo momento è a colloquio con il capo del governo Alexis Tsipras. Ci sono due manifestazioni che sono partite alle 5 ora greca, dirette verso l'ambasciata statunitense, ma insomma ovviamente penso che non gli sarà permesso di arrivare fino a lì. Ci sono due cortei, uno del movimento, diciamo così, e l'altro invece del Partito Comunista Greco, il KKE. E le misure, dicevamo, sono state molto molto imponenti, sono molto imponenti, con strade completamente chiuse, le scuole che sono chiuse, moltissime scuole del centro, dall'università alle scuole elementari, sia oggi che domani, e poi vedremo cosa succederà anche dopo domani, perché il 17 novembre è l'anniversario della rivolta del Politecnico del 74, che pose poi fine praticamente alla dittatura dei colonnelli. Ma questo poi lo vedremo meglio, sperando sempre di riuscire a collegarci con Atene. In questo momento non ci siamo riusciti, quindi poi ne parleremo un po' meglio. E contemporaneamente, fra l'altro, c'è uno sciopero che andrà avanti per qualche giorno dei mezzi pubblici, quindi metropolitana, autobus e così via, e questo ovviamente complica ancora di più le cose. Però insomma cercheremo di avere notizie su quello che sta succedendo e di darvi anche noi almeno le notizie che abbiamo al momento. Quindi ancora qualche minuto di pazienza e poi partiamo col Brasile. Va ricordato anche che questa visita, appunto, di Obama si interseca anche con le celebrazioni della rivolta del Politecnico, che hanno avuto sempre caratteristica anti-statunitense, proprio per il ruolo che gli Stati Uniti giocarono nel colpo di Stato e poi nella conseguente dittatura dei colonnelli in Grecia, iniziata nel 67. Allora, le 18:14, ecco, siamo pronti e quindi possiamo iniziare questa chiacchierata su, appunto, la situazione in Brasile, quando volete. Diciamo allora brevemente, qui abbiamo un compagno che vive in Brasile, adesso temporaneamente rientrato in Italia, e che insomma ci ha portato parecchie notizie della situazione brasiliana, soprattutto ha considerato che quest'anno, anzi questi ultimi due anni, insomma il Brasile è stato protagonista di due, come si dice, grandi eventi sportivi: nel 2014 i campionati del mondo di calcio e quest'anno nel 2016 le Olimpiadi, che si sono chiuse praticamente a settembre, fine agosto-settembre. Ecco, queste entrambe le vicende sono al solito oggetto dell'attenzione dei media internazionali, perché grandi eventi sportivi eccetera eccetera, ma non solo, perché nel frattempo, specialmente in Brasile, ci sono stati delle sobbalzi politici legati a questi eventi, in particolare legati agli Olimpiadi, o comunque che si sono sovrapposti alle Olimpiadi, come l'impeachment di Dilma Rousseff, la presidente del Brasile, che è finita sotto inchiesta. L'impeachment, si è parlato del golpe, si è parlato diciamo di un'operazione montata al solito, individuando anche negli Stati Uniti in qualche modo, o comunque se non direttamente in maniera eterodiretta, che avrebbero portato appunto alla destituzione di Dilma Rousseff. E noi con questo compagno, io dico solo ancora due parole, poi passo a lui la riflessione, il racconto insomma di questa situazione attuale, che però non parliamo della situazione attuale, parliamo, lui ci parlerà in particolare di come si è arrivati a questa situazione. E quindi consideriamo questo, che fino a 4-5 anni fa, nonostante la crisi internazionale del 2008, il Brasile faceva parte di quella compagine di stati nel mondo che erano etichettati sotto la sigla BRICS, che corrispondeva esattamente alle iniziali di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, che avevano avuto un livello di sviluppo quasi in controtendenza rispetto ad altre economie, in particolare all'economia occidentale. Quindi si era parlato dei BRICS come fenomeno emergente, di paesi, di nuove economie che mostravano elevati livelli di crescita, e questo a un certo punto, questo meccanismo si è interrotto. È chiaro che un approfondimento di questo tipo richiederebbe anche considerazioni su quelle che sono state i passaggi della crisi economica internazionale, che sicuramente ha avuto le sue influenze anche su queste economie. Basti pensare, cito solo la situazione del petrolio, quindi l'abbattimento dei costi del petrolio, il prezzo del petrolio che è enormemente sceso, ha sicuramente per esempio colpito un'economia come la Russia, ma non solo, probabilmente lo stesso Brasile. Ma in questo pomeriggio, in questa chiacchierata che facciamo con questo compagno, viceversa parliamo di questi due aspetti particolari, di questi due grandi eventi, dei campionati mondiali di calcio e delle Olimpiadi di quest'anno, che hanno contribuito, non solo loro, ma hanno dato un notevole contributo alla crisi, perché di questo si può sicuramente parlare, che attualmente investe il Brasile. E quindi io ti passo la parola per, diciamo, cominciare questa riflessione insieme. Buonasera a tutte e tutti. Dopo la Coppa del Mondo sicuramente in Brasile si è cominciato a parlare di crisi, appunto, come dicevi tu, in controtendenza a quello che era stato negli ultimi anni il ruolo di crescita economica che il Brasile rappresentava nel panorama internazionale. Sicuramente i costi pagati dalle casse pubbliche brasiliane per sostenere l'evento della Coppa del Mondo sono stati molto più elevati di quello che era stato preventivato e pianeggiato in fase di assegnazione della Coppa del Mondo a questo paese. Nel 2015 è stata portata avanti in Brasile un'operazione giudiziaria denominata Lava Jato, che verte su uno scandalo tra virgolette ma di corruzione che ha preso vita dalle dichiarazioni di una persona coinvolta appunto in un episodio di corruzione che ha aperto poi a cascata una serie di ha rivelato una serie di notizie e di relative a corruzione di molti politici molto influenti nel panorama politico brasiliano, tra cui Lula e Dilma Rousseff, ma non solo, anche Cunha o altri rappresentanti molto influenti di altri partiti di governo comunque. Sia quindi di una buona parte di elementi del partito dos Trabalhadores, del PT, ma anche degli altri partiti che siedono in Parlamento. E questa operazione ricorda un po' il terremoto che accadde qui, il terremoto politico di Tangentopoli, è stata anche da loro, nei giornali brasiliani, spesso avvicinata questo tipo di operazione a quello che accadde qui 25 anni fa. Ora, ritornando nello specifico ai costi della Coppa e poi anche delle Olimpiadi che riguardano nello specifico Rio de Janeiro, mentre la Coppa del Mondo è stata ospitata da 12 città sparse nel Brasile, questi costi appunto sono stati molto più elevati di quanto preventivato e soprattutto i risultati in termini di benefici per la popolazione, che sono il tema della propaganda della FIFA, soprattutto comunque dello stesso Stato brasiliano nel presentare i vantaggi di ospitare il grande evento della Coppa del Mondo, questa cosa che sicuramente per qualsiasi brasiliano era un grande onore, vista la passione per il calcio di quel popolo che conosciamo anche noi bene. E in realtà i risultati poi effettivamente concreti di questa eredità che avrebbe dovuto lasciare la Coppa sono molto pochi oppure sono individuabili in opere di infrastrutture che non sono state concluse o nella costruzione di stadi completamente inutili in città come Manaus o Cuiabá o Brasilia stessa, che non hanno nemmeno una squadra di calcio che militi nemmeno nella seconda divisione, che giustifichi l'esistenza di una struttura del genere, la quale costa più per rimanere aperta che essere demolita. Solo che, siccome ha ospitato tre partite nell'ambito della Coppa, nessuno si prende la responsabilità poi di dire che è meglio demolirla. Ma di fatto per esempio lo stadio di Brasilia è il terzo stadio più costoso del mondo e onestamente questo non era necessario agli occhi di nessuno, tant'è vero che nel 2013 durante lo svolgimento della Confederation Cup, che è una sorta di prova generale del mondiale che poi verrà disputato l'anno successivo per testare gli impianti sportivi e verificare se comunque le strutture per raggiungere questi stadi sono adeguate eccetera, e anche verificare i livelli di sicurezza durante le partite. In Brasile avvenne una forte contestazione anche in un certo senso quasi inaspettata a questa Confederation Cup che se ricordiamo appunto balzò agli onori delle cronache contemporaneamente a quello che accadeva anche in Turchia quando ci furono insomma dei movimenti abbastanza determinati che scesero in piazza per contestare nel caso del Brasile la Confederation Cup, perché il dato più evidente per gran parte delle persone che scesero in piazza era che si stavano spendendo un sacco di soldi per cose totalmente inutili, quando i servizi essenziali come la sanità, l'istruzione venivano tagliati in quella che è il piano di spesa del governo, per non parlare dell'aumento dei costi dei biglietti degli autobus, che fu il motivo diciamo scatenante, poi più che la Confederation Cup in sé, di quel momento che è durato un mese di proteste abbastanza violente, anche che infiammarono varie città del Brasile, e questo aumento del costo del biglietto degli autobus purtroppo in quel momento venne quasi ritrattato, ma poi invece è stato pianificato che nel corso dei prossimi 5 anni tendenzialmente invece continuerà ad aumentare, e di questo posso essere anche io testimone, perché nel giro di un anno si è passati da un costo di 3 reais e 40 a un costo di 4,10 della 4 reais e 10 del biglietto della metro. E, al di là della traduzione in euro del costo, si capisce già dalla percentuale dell'aumento, insomma, che questo è un aumento abbastanza consistente e non finirà qui. Quindi questo stato di anche di proteste che ci fu nel 2013 durante la Coppa non si è potuto manifestare, anche per una serie di motivi che riguardano la repressione comunque, che è stata abbastanza violenta. E, per quanto riguarda invece quello che è stato il progetto di messa in sicurezza delle città, per quanto riguarda Rio c'è stato un altro tipo di operazione che è fondamentale da prendere in considerazione per quanto riguarda la modifica della realtà cittadina stessa da parte delle istituzioni locali, che hanno diciamo deciso di fare un'operazione di pacificazione cosiddetta di alcune favelas, che guarda caso sono quelle che sono collocate strutturalmente nei posti interessanti per alcuni tipi di speculazioni future, perché qui bisognerebbe spiegare un po' anche magari la geografia della città, è un po' complicato appunto. In questo caso ti riferisci a Rio? Sì, particolare sì, a Rio specifico, sì. Queste le favelas in generale a Rio non sono dei posti diciamo esterni alla città, ma sono ben presenti in molte zone, cioè non sono non è una cintura periferica, insomma, per capirci, esclusivamente periferica, sono inglobate alcune, non tutte, dentro diciamo così il tessuto urbano vero e proprio, insomma. Sì, perché quella cintura così è detta suburbio, e è la zona nord della città, diciamo che è una zona infatti che si estende fino a Basciata Fluminense, è anche enorme dal punto di vista territoriale e del numero di abitanti, ma le favelas diciamo caratteristiche di Rio sono quelle sui morros, cioè su queste colline che stanno all'interno della città, che sono posti impervi dove solo la forza della disperazione ti spinge a poterci costruire una casa, anche proprio per lo sforzo di arrivare con i mattoni fino a lì. Sono anche quelle di insediamento più vecchio, penso, no? Esattamente, infatti le prime sono state fondate nella zona portuale, che appunto tra l'altro è una zona che è stata oggetto e continua ad essere oggetto di modifica sostanziale proprio per le Olimpiadi che si sono svolte quest'anno. Perché c'è il progetto del Porto Maraviglia, quindi la riqualificazione della zona portuaria, e ovviamente chi si è fatto casa in una zona che in quel momento serve al comune per fare un'infrastruttura viene semplicemente rimosso, anche perché c'è secondo il comune il criterio di illegalità nell'esistenza di quella gara. Sono costruzioni abusive, insomma. Sì, sono abusive, però in un certo senso anche nel regolamento municipale stesso queste costruzioni sono anche riconosciute, nel senso che c'è un articolo specifico che è 429, se non sbaglio, che dice che le favelas non possono essere rimosse se non perché le famiglie sono in pericolo di vita. Ora, questo criterio di pericolo chiaramente è discrezionale da parte delle forze dell'ordine, quindi siccome queste case delle favelas sono case abbastanza a vista pericolanti, nel senso che non è che siano ben solide, a volte anche sono casette basse, in genere, insomma, sì, comunque ce le abbiamo avute pure a Roma, le chiamavamo in modo diverso, ma insomma. Sì, non sono propriamente baracche, perché sono comunque case fatte di mattoni, magari non rifinite, però comunque sono fondamentalmente case, solo che loro giudicano magari appunto che sono pericolanti e quindi possono tranquillamente andare lì con i bulldozer e abbatterle. E questo è avvenuto, insomma? Questo avviene, è avvenuto molto tra il 2007 e oggi, perché appunto il piano di messa in sicurezza della città e di ristrutturazione, diciamo, della viabilità, delle infrastrutture, dei trasporti, eccetera, dove devi passare una strada, non c'è problema, si butta giù tutto, gli abitanti vengono rimossi e collocati magari in altre zone della città. Un esempio che non riguarda questo periodo storico ma uno precedente, quello della famosa Città di Dio, Cidade de Deus, che è una favela famosa per il film City of God, che è stata formata appunto nel periodo degli anni 60, quando una zona intorno alla Lagoa, che adesso è una delle zone più dove abitano persone benestanti, diciamo più chic, Gavia, dove c'è il Jockey Club, che è un immenso impianto, un ipodromo. Lì vivevano 140.000 famiglie che sono state semplicemente rimosse da lì, e una gran parte fu mandata in questa Cidade de Deus, che è... Quante famiglie? 140.000. Insomma, una piccola città italiana, neanche piccola, insomma, esatto. Una provincia. Sì. Praticamente, se uno va a vedere sulla cartina, sulla mappa di Rio, dove è Cidade de Deus, si rende conto che queste persone sono state proprio sbattute in una zona con lagune intorno, anche paludosa, diciamo, malsana, ai margini di tutto. E adesso invece che questa zona è vicino a Barra della Tijuca, che è il posto dove sono stati ospitati gran parte degli impianti sportivi delle Olimpiadi, un'altra volta alcuni sono stati rimossi per un'altra volta, appunto perché lì doveva passare la strada di congiunzione, oppure bisognava costruire l'impianto sportivo, e quindi comunque questa rimozione è continua, e c'è sempre qualche motivo per allontanare le persone dai propri luoghi di residenza. Senti, facciamo un passo indietro, così facciamo capire meglio a ascoltatori e ascoltatrici i passaggi, insomma, che hanno portato a intersecarsi la crisi politica che ha visto al centro sia Lula e sia soprattutto Dilma Rousseff, quindi diciamo il PT, ma non solo, perché poi queste storie riguardano, come dicevi, anche l'intero arco costituzionale, possiamo chiamarlo così, insomma, dei partiti. Cioè, il passo indietro evidentemente deve essere quando c'è l'assegnazione al Brasile e dei mondiali di calcio e delle Olimpiadi, quindi parliamo di almeno di una diecina d'anni fa, insomma, quando comincia questa storia. Ecco, se tu la racconti un momento per far capire anche come si passa dalle apparentemente neutre scelte che fa la FIFA, che è la Federazione Internazionale del Gioco del Calcio, e il Comitato Olimpico Internazionale, che sembrano due strutture neutre, una sorta di piccole ONU nei rispettivi settori, e viceversa come interagiscono queste assegnazioni e quindi le decisioni che prendono questi due organismi con i governi che di volta in volta dei paesi che sono coinvolti su questo. Tra l'altro mi facevi notare prima che non a caso nei BRICS ci sono Brasile, Russia e Sudafrica, tutti e tre paesi interessati dai campionati del mondo, insomma. Infatti diciamo che alla fine i campionati del mondo di calcio, le Olimpiadi, si figurano come quegli agenti di globalizzazione che portano alla fine all'interno dei paesi ospitanti e delle città che li ospitano una sorta di standardizzazione delle modalità di consumo e di commercio che modificano l'assetto stesso della città e non durano solo per la durata dell'evento stesso, ma poi permangono, diciamo. Tornando a quella che era la domanda, poi il centro della domanda, appunto torniamo al 2007 quando il Brasile viene ufficializzato che il Brasile ospiterà la Coppa del Mondo e poi successivamente Rio si aggiudicherà anche le Olimpiadi. E uno, diciamo, dei più grandi sostenitori della candidatura del Brasile al Mondiale, alla Coppa del Mondo, è stato un magnate della finanza brasiliano, tale Eike Battista, che ha imprese nel campo del petrolio, del gas, dell'energia e poi reinveste i suoi profitti anche nel campo dello spettacolo e della tecnologia. Lui per esempio è uno dei promotori dell'operazione della pacificazione nelle favelas tramite le UPP, che sono le unità di polizia pacificatrice. L'assegnazione di una coppa, dell'ospitare una coppa a un paese, è stato dimostrato recentemente che avviene Se vi cambiate di microfono, perché tu così lì stai più comodo e si sente meglio, mentre tu vai lì e sei più abituato, così non devi girare la testa e parli proprio perpendicolare. Grazie. Scusate. I metodi con cui una coppa viene assegnata, appunto all'interno della FIFA, tutti abbiamo sempre immaginato che fossero stati non poco trasparenti, ma è stato dimostrato da un'operazione che ha condotto la FBI nel 2015, che ha portato comunque alla destituzione di Blatter e all'arresto di due dei massimi esponenti della Confederazione Brasiliana del Calcio, e dimostra che comunque c'è stata un'operazione di corruzione nella compravendita dei voti di quei personaggi dei singoli stati che poi votano un paese piuttosto che un altro. Questa corruzione che avviene all'interno dei vertici FIFA è comunque poi dopo riportata negli stati ospitanti riguardo a quello che poi è l'assegnazione degli appalti, delle grandi opere e delle infrastrutture che vengono programmate. Nel caso del Brasile, tra l'altro, queste grandi opere dovevano essere all'incirca 16, forse ne sono state realizzate 6. Sappiamo già che solo il costo della progettazione delle opere e che permette di mettersi in tasca già abbastanza soldi e cominciare a fare gli appalti e poi lasciare i lavori in sospeso, comunque alla sua convenienza per alcuni. Sicuramente quindi in questo periodo, da quando il Brasile ha proposto la sua candidatura a quando ha ricevuto poi l'assegnazione della Coppa a oggi, comunque è chiaro che non sia un fatto neutro rispetto poi a, diciamo, il calderone della corruzione che è stato scoperchiato anche forse magari a fini di cambio dell'elite al potere, perché non si può negare che effettivamente soprattutto i grandi media hanno sostenuto una campagna contro Dilma Rousseff nello specifico e Lula, ma hanno sostenuto soprattutto quel movimento che c'è, reazionario, che c'è stato negli ultimi due anni, che ha portato a almeno tre giornate di manifestazioni nelle capitali degli stati brasiliani, se non sbaglio cosiddetto dei Tucanos, che comunque è un movimento composto da reazionario, composto soprattutto da classe borghese bianca, che vanno in piazza con la maglietta del Brasile, guarda caso della Seleção di calcio, e pretendevano la fine della corruzione, la caduta di Dilma Rousseff, eccetera. Diciamo quindi che c'è stata sicuramente un'operazione destabilizzante da parte diciamo di questa compagine reazionaria che tu dici, insomma, e che è stata sostenuta dalla stampa e così via. Diciamo che questo però è avvenuto in un contesto in cui gli elementi di corruzione, magari non quelli che sono finiti sotto, per cui Dilma Rousseff è finita sotto inchiesta, Lula eccetera eccetera, che riguardano, se non ricordo bene, Petrobras, no? Sì, sì. Che è la maggiore compagnia petrolifera del paese, è una delle più grandi del mondo, ma comunque sono avvenuto in un contesto in cui evidentemente questi due eventi dei campionati del mondo e delle Olimpiadi avevano reso evidente questi meccanismi di corruzione che di altro tipo, riguardanti le opere che comportavano sia per l'uno che per l'altro avvenimento, insomma, ecco. Sì, ma infatti uno, oltre a Petrobras, un altro nome è quello di Odebrecht, che è l'impresa più grande di costruzioni del Brasile, che è quella che ha fatto gli stati di cui parlavo prima, di Manaus, di Cuiabá e Brasilia. Quindi sicuramente c'è stato un gioco a chi si accaparrava, insomma, la fetta più grossa di questi soldi che arrivavano, secondo la propaganda, dagli sponsor, cioè secondo la propaganda del governo brasiliano. Non un real delle casse pubbliche sarebbe stato utilizzato per fare questa Coppa del Mondo. Questa è stata la grande menzogna, lo slogan, sì proprio la grande menzogna, e dicendo che anzi questa Coppa avrebbe portato dei grossi vantaggi per la popolazione, perché grazie ai soldi degli sponsor, dei grandi marchi internazionali, si sarebbero costruite strade, ferrovie e aeroporti. Ma tutto questo invece non è successo, e invece le casse pubbliche sono state utilizzate come molto più del dovuto, e le imprese che hanno operato in Brasile in questi anni ai fini della Coppa del Mondo e delle Olimpiadi sono state detassate, sono state agevolate, gli è stato permesso anche diciamo in forme anticostituzionali di avere sgravi fiscali, eccetera. Quindi diciamo che è evidente che ognuno ha tirato l'acqua al suo mulino, cercando di riempirsi le tasche il più possibile finché c'è stata la festa. Poi questa festa è finita, e infatti alla fine della Coppa, l'anno dopo, il paese è entrato in crisi. Io penso che ci sia una relazione diretta tra il grande evento, la gestione del grande evento e le modalità comunque tra virgolette normali di operare della politica brasiliana. Comunque certo, a questo proposito si può fare l'esempio della Grecia, no? Che con le Olimpiadi del 2004 ha cominciato a, diciamo, anche lì grandi spese, grandi opere eccetera eccetera, e da lì insomma l'esborso di denari pubblici evidentemente, insomma, in favore delle ditte nazionali e internazionali è stato tale, per cui ha contribuito, non è stato il solo fattore, ma insomma gli ha dato un bel contributo allo sviluppo della crisi. Infatti, proprio per tornare al discorso dei BRICS e dei PIGS, se pensiamo oltre alla Grecia anche il Portogallo, che ospitò comunque l'Europeo di calcio, dopo, successivamente a quell'evento, anche Portogallo è stato in uno stato di crisi. E non sono cose, non è l'unico fattore questo, però certo. Sicuramente è un fattore che agevola uno spreco di risorse e soprattutto un arricchimento da parte di alcuni personaggi tra politici e imprenditori che appunto spingono con la propaganda questi eventi come un bene per il paese, e invece chiaramente approfittano a mani basse dell'arrivo di questi soldi e anche di quelli che non dovrebbero essere nemmeno destinati a questo, ma comunque in via eccezionale vengono appunto poi presi e poi ricascano sulla popolazione che comunque alla fine si trova col debito. Ecco, volendo un po' quantificare, se insomma a spanne, ovviamente non con i numeri esatti, ma tra spese dei mondiali di calcio e spese per le Olimpiadi, quanto potrebbe essere stato l'insieme? E cioè parliamo di miliardi, evidentemente, insomma, non sì. Parliamo di miliardi di euro o di dollari, comunque, insomma, non parliamo purtroppo non mi sento di poter dare delle cifre, nonostante le abbia anche lette, perché però non vorrei dire cose diciamo non precise riguardo alle cifre. Però nel documentario che abbiamo visto poco tempo fa nel Dominio Pubblico si parlava del fatto che i giochi panamericani dovevano costare 400 milioni di reais, e invece ne sono costati 4 miliardi. Io penso che una proporzione più o meno simile sia stata fatta e anche con numeri più alti, perché comunque la Coppa del Mondo è stata disputata in 12 città del Brasile, quindi mentre i giochi panamericani erano solo a Rio de Janeiro. Tra l'altro il Brasile neanche ha vinto, insomma. No. questo come così nota, diciamo, quasi di colore, quindi nonostante tutto l'entusiasmo popolare strumentalizzato eccetera, poi insomma il Brasile non è riuscito a vincere nemmeno la Coppa del Mondo. Fra l'altro, un discorso che si può fare sulle Olimpiadi in generale, visto che ci tocca da vicino, no, per tutta la questione Olimpiadi a Roma o no, adesso addirittura si parla nuovamente del Gran Premio di automobilismo, si è tornato a parlare, che era una proposta di Alemanno che poi insomma fu abbastanza accantonata. Ci manca sinceramente solo quello qui a Roma, sì, il Gran Premio all'Eur. Anche se ha detto il sindaco che è un Gran Premio di auto elettriche, non ho capito, ecco, insomma, allora, sì, vabbè, ha detto così, sì, fa un Gran Premio, non insomma una Formula 1 relativamente auto elettriche, non era una cosa ben chiara, che insomma non fregherà niente a nessuno. Comunque sul discorso delle Olimpiadi non so adesso quelle degli anni precedenti, ma insomma comunque di fatto ormai è chiaro che non c'è un ritorno, quel tanto strombazzato ritorno di denaro, no, di cui parlano le nazioni che concorrono appunto ad avere le Olimpiadi sul loro suolo, ma è soltanto diciamo un'immagine che è sterile, che però non porta niente, porta guai agli abitanti, ne abbiamo vista appunto una parte adesso, ce l'hai raccontata, ma soprattutto non porta poi niente, come fra l'altro, permettetemi, il giubileo della misericordia che si sta concludendo, è chiusa la Porta Santa eccetera, e che pure doveva portare a Roma turisti, l'ha portati, ma non sappiamo nemmeno meno di quelli che si pensava, e soprattutto ha portato pochi soldi, solo un po' di disagio, molto disagio in più, ma tanto, ecco, come abbiamo visto oggi ci abbiamo fatto il callo e non dovremmo. Ecco, tornando al racconto tuo principale, insomma, allora questi sono stati i mondiali di calcio che hanno interessato sicuramente la realizzazione di grandi opere, stadi che in città, come tu stessa hai detto, dove si sono giocate tre partite, insomma, Manaus, per chi non ce l'ha presente, sta in piena foresta amazzonica, tanto per capirci, una volta era la capitale della gomma, perché si estraeva da lì quando la gomma si faceva esclusivamente con lattice degli alberi, insomma, e adesso poi non è più propriamente così, e appunto città che non hanno assolutamente beneficiato di queste opere, perché anzi mi dicevi prima che alcune stanno addirittura cadendo, hanno avuto bisogno di interventi di manutenzione straordinaria e così via, quindi il meccanismo dello spreco di denaro è abbastanza chiaro, e per i mondiali ha significato questo. Per le Olimpiadi credo che ci siano, dato che si sono svolte a Rio de Janeiro, quindi come città, non so se ci hanno avuto qualche piccola manifestazione in altre città, ma insomma la città principale. Proprio lo stadio di Manaus, dato che se no non ci sarebbe giustificazione nella sua esistenza, per tre partite. Pure per tre partite, ecco. E invece lì credo che a Rio de Janeiro l'impatto delle Olimpiadi sia stato ancora più forte per quanto riguarda proprio certi strati della popolazione di Rio, insomma, e quindi torniamo un po' al discorso delle favelas con tutto quello che ha comportato. Sì, diciamo che l'aspetto principale di disagio per le persone che vivono lì è stato quello della rimozione. Però al di là della rimozione, anche l'operazione di cosiddetta pacificazione è un'operazione che ha comportato dei... Ecco, questa la dovresti spiegare bene, perché insomma il discorso nasce da perché ci vuole la pacificazione, a parte il nome che fa insomma un po' macabro e anche insomma, ma perché c'è voluta sta pacificazione nei riguardi degli abitanti delle favelas? Questo è importante, perché le notizie che abbiamo qui in Italia riguardo a quello che succede sono abbastanza sporadiche e a volte sensazionalistiche, come durante le Olimpiadi si è parlato del fatto che c'erano delle sparatorie nelle favelas, come se fosse una cosa strana. Purtroppo questa è una situazione che avviene tutti i giorni, perché i Morros, appunto le montagnette dove si arroccano le favelas, essendo impervie, sono anche il terreno migliore dove nascondersi per i trafficanti, i quali da qualche decennio a sta parte hanno comunque preso il controllo proprio del territorio, nelle comunità, che sarebbe il termine, diciamo, che gli stessi abitanti usano per definire quelle che vengono chiamate favelas, che ormai è visto come un termine abbastanza dispregiativo lì in Brasile. Queste comunità ovviamente non sono abitate solamente dai trafficanti, ma anche da molte famiglie, da lavoratori che comunque sicuramente pagano o non pagano casa, perché se la sono costruita da soli, oppure se stanno in affitto comunque pagano delle cifre sicuramente molto più basse rispetto a quelle delle case tra virgolette normali, pur stando in zone della città appunto anche centrali. Ecco, ma perché le favela sono state interessate dalle Olimpiadi? Insomma, ci dovevano passare strade, non credo che facessero impianti sportivi sulle favela, quindi c'è un discorso probabilmente il discorso principale dell'operazione di pacificazione è quello securitario, cioè nel senso che comunque viene individuata la favela come un territorio che quasi non appartiene alla città, perché possiamo immaginare le favela anche come delle grosse occupazioni dove comunque la corrente viene presa, internet altrettanto, quindi uno degli intenti principali della pacificazione delle favela è quello di normalizzare e formalizzare l'uso dei servizi primari all'interno di una casa: acqua, luce e internet attualmente. Quello che appunto è stato il principio, diciamo, dell'operazione militare è stato quello del peacekeeping. Questi che hanno deciso di fare l'operazione hanno seguito le direttive NATO, e questo appare già assurdo, perché si è trattato delle vere e proprie occupazioni militari. Lì esistono due tipi di polizia principalmente: una è quella civile e quell'altra è militare. Quando pattugliano generalmente la città girano con dei fucili fuori dal finestrino. La situazione è abbastanza pesante in generale a Rio de Janeiro, non è una città tranquilla da questo punto di vista. Le sparatorie ci stanno tutti i giorni, dai dati ufficiali riportati dal Globo, che è il, diciamo, il giornale più importante lì in Brasile, ci sono una media di 4,5 sparatorie al giorno solo nelle, nelle 28 favelas cosiddette pacificate. Un numero molto alto di morti ogni anno per bala perdita, che sarebbero i proiettili vaganti, che molto spesso nemmeno sono proprio così vaganti, perché comunque omicidi da parte della polizia nelle loro operazioni quotidiane all'interno delle comunità sono frequentissimi, e con tanto di spostamento di cadaveri davanti a tutti, posizionamento di presunte armi vicino al corpo della persona che è stata ammazzata e così via. Ci sono una marea di casi di, appunto, famiglie, madri soprattutto, che lottano per la verità sulla morte dei propri cari, e purtroppo questi sono episodi abbastanza quotidiani. Ci sono delle zone della città come il complesso Alemão, Maré, che sono territori di guerra vera e propria, e pure i banditi sono armati con armi pesanti, con AK-47, hanno anche sviluppato una strategia militare più seria da quando comunque anche altri immigrati che vengono da guerre in Africa, tipo gli angolani, comunque si rifugiano pure loro insieme ai banditi e portano delle conoscenze dell'uso delle, delle armi pesanti che loro, cioè, hanno a disposizione, che a detta pure delle, della polizia locale di Rio sta diventando appunto un uso più consapevole, quindi anche più pericoloso, di questo armamentario rispetto a una volta. Ora, l'operazione per esempio dell'occupazione del complesso d'Alemão è stata trasmessa in diretta televisiva. Questo è anche il sintomo di un fatto che questa è un'operazione spettacolarizzata e sbandierata ai quattro venti come una, un miglioramento delle condizioni della, di vita degli abitanti stessi di, delle comunità, ma nella realtà dei fatti poi questo ha significato che la presenza della polizia dentro o all'ingresso, comunque di solito all'ingresso della comunità, comporta un motivo di scontro più frequente in realtà, appunto con armi da fuoco abbastanza significative. E in più molto spesso i prefabbricati che ospitano l'unità di polizia pacificatrice sono stati messi vicino alle scuole, quindi ci stanno comunità, a me è capitato vedere quella di San Carlo, che ha un muro della scuola crivellato di colpi, quindi anche con scarsa intelligenza tattica, diciamo, da parte di chi conduce operazioni. Come, ritornando al discorso del peacekeeping, che significa? Che loro, la polizia si presenta con un volto democratico e umano, come per aiutare appunto la popolazione a uscire dalla, dalla tirannia dei banditi, ma di fatto alla fine tratta tutti quanti gli abitanti della comunità come dei criminali, possibili sospetti, certo, perché comunque poveri. E qui in Brasile il vero razzismo è nei confronti della povertà, non dipende tanto dal colore della pelle, dal momento che è una delle società più meticce che io abbia mai visto, in cui appunto è poco determinante colore di pelle, occhi, ma è molto determinante il conto in banca, se ce l'hai. E appunto la maggioranza degli abitanti delle comunità sono trattati come potenziali criminali solo in quanto poveri. Molto spesso invece sono anche lavoratori, e c'è una forte identità all'interno delle comunità, anche un orgoglio di vivere lì, di essere magari differenti nel modo di vita rispetto a quello classico, forse anche, diciamo, dovuto a una condizione di condivisione di questo stato e di solidarietà tra le persone. Ovvio che il problema del controllo del territorio dei banditi sicuramente non è una cosa rassicurante per chi vive lì, quindi nessuno